YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. È la 20ª puntata di Radio Tube, Daniele. Ma come facciamo a fare questa puntata? Che questa settimana non è successo nulla, non è successo nulla in politica, non sta per succedere nulla nella televisione, nelle canzoni. Cioè, non c'è programma. Non so di che cosa parleremo. Boh, meno male che tu lavori tanto, fai tante interviste in giro e quindi le possiamo sentire. Però nel frattempo voi potete scriverci ai nostri account @MartaCagnola @DiBellasio, oppure potete usare il nostro fantasmagorico hashtag cancelletto Radio Tube. Hai detto una cosa sacrosanta, non è successo niente nella politica. Che noia, che barba. Che settimana pesante, niente colpi di scena. Assolutamente, niente. Meno male che c'erano un po' di Olimpiadi da vedere, perché sennò la televisione niente, non c'era in streaming niente. In streaming vuoto. Streaming c'era vuoto, praticamente la banda libera. Nessuno ha guardato nulla in streaming. Vabbè. Beh, dai, cominciamo con i due video più virali della rete. Più cliccati della rete questa settimana. Vabbè, diciamolo, di politica parleremo abbondantemente e prevedibilmente. Sì, ma scavando, perché proprio, cioè proprio siamo dovuti andare a trovare le notizie nei posti più impensabili. Quindi iniziamo subito con la parodia della politica. Con la parodia della politica, perché questi ragazzi sono straordinari. Terzo segreto di satira. Satira, ne abbiamo anche Ne abbiamo parlato, anche la TV ha cominciato a scoprirli. Anche la TV ha cominciato ad accorgersi di loro. La mamma TV ha cominciato ad accorgersi di loro e la rete questa settimana è esplosa per il loro ultimo video. Hanno girato un video nel quale hanno ipotizzato, ma chissà come mai, ma veramente... Che strano! Ma non lo so, ma delle elezioni, ma chissà come mai tutto così tranquillo. Ma no, ma poi le elezioni si possono fare sempre, no? In un paese così prevedibile come il nostro hanno ipotizzato delle elezioni, ma soprattutto partendo... dall'Italicum, del quale abbiamo già parlato con grande affetto, si sono immaginati... Parlandone da vivo, dico dell'Italicum. Di quando ancora si pensava che... Si sono immaginati un paese in cui alcune persone non possono votare. Gli juventini, per esempio? A quelli no, però bisognerebbe suggerire di aggiungere a questa lista che vorrei guardare alla radio insieme a te. Vediamo. Non possono votare quelli che nelle foto fanno il gesto del surfista, quelli che fumano la sigaretta elettronica. Mi sta aiutando tantissimo a smettere. Non possono votare quelli che hanno sempre la battutina pronta. Cameriere, mi può portare un altro calice per piacere? Che il mio deve avere un buco sotto che perde. Non possono votare quelli che nella stessa frase dicono figa, tavolo, papete, privé. Allora ascolta, stasera, tavolo al papete, in privé. E c'è pieno di figa! Lo figo, dai! Non possono votare quelli che ridono agli spot delle compagnie telefoniche. Leva lo yoga e metti uno yogurt. Quelli che usano inglesismi a caso. E guarda, ti briefo più later, sono veramente full, ok? Vai. Quelli che nelle tragedie all'estero controllano se ci sono italiani. 3.000 morti in Egitto, ma per fortuna nessun italiano. Non possono votare quelli che fanno sempre riferimenti televisivi. Ma tu sei fortissimo, cazzo, dovresti andare a Zelig e stai qua. Io sono d'accordo su tutte. Ma a un certo punto se le prende pure con le vibrazioni. Sì, a un certo punto se la prendi, dice che non possono votare quelli che ascoltano le vibrazioni. E l'altro dice, però hanno un bel bassista, no? Un gran sì, bassista. Perché poi alla fine si scopre che uno dei due in realtà è un fan delle vibrazioni, ma delle vibrazioni parleremo la prossima settimana sicuramente, perlomeno del loro cantante che è Francesco Sarcina, che sarà a Sanremo, perché la prossima settimana... Sei già in prepartita. Sì, io sono già lì che faccio le valigie. Secondo video... viralissimo della settimana, abbiamo già anticipato, parleremo di politica e quindi abbiamo ascoltato, anzi visto alla radio, il terzo segreto di satira. Secondo video abbiamo un video di bimbi. L'altra volta abbiamo... che noi non mostriamo i bimbi. No, sì. Ma l'altra volta abbiamo parlato degli anziani con la trapanarella. Sì, a me devo dire che mi è piaciuta di più quell'idea lì. L'idea della trapanarella. L'idea dei bimbi. Vabbè, insomma, ne ascoltiamo bimbi, un pezzettino e poi mi dici cosa ne pensi. The Jekyll, un altro The gruppo Jekyll. Famosissimo, anche di loro abbiamo parlato. Ne vediamo alla radio un pezzettino piccolo piccolo e poi, poi mi dici cosa ne pensi. Secondo te, può esistere l'amore tra un uomo e un altro uomo o una donna e un'altra donna? L'importante è che qualcuno è capace di innamorarsi. Non mi darebbe nessuna stranezza, nessuna antipatia, niente. Mio padre dice che sono malati. Non possiamo dire che cosa deve fare, cosa non deve fare. Ma se l'amore significa che si vogliono bene, non ha importanza che sia un maschio o una femmina. E quindi basta che ci sia l'amore? Per me sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Beh, sì. Sì. Sì. Per me sì. Sì. Ha superato il milione di visualizzazioni questo Amore Gay, che è stato uno dei video più virali della settimana. Che ne pensi? Ecco, no, mi lasci dire una cosa retorica. Oh, tu sì. Sai che ogni tanto io... Ma tu ci sono alcuni concetti, retorico qua... alcuni sostantivi da cui noi dovremmo abolire gli aggettivi. Amore Gay. Si poteva chiamare amore questo video. Mi sono d'accordo con te. Guarda, per una volta ma no, come per una volta, siamo spessissimo d'accordo. Ma comunque, so. Il video era tenero, carino. Io c'ho qualche dubbio sui bambini, la rete, i video, i bambini, la rete, i video. Insomma, sono tre concetti che mi fanno un po' qualche perplessità messi assieme, però era tenero. Il video era molto tenero e ti anticipo che parleremo ancora molto di omosessualità, perché è stato un altro dei temi più dibattuti nella settimana. Però lo facciamo più tardi, adesso ci interrompiamo perché abbiamo immagino una piccolissima pausa. Immagino che vorrei parlare di quella bazzecola lì, quella, sì, di quella cosa che succede la prossima quelle settimana, cose lì. Quel piccolo evento televisivo. Niente non di solo. Politica e niente di musica succede in questo mese di febbraio. Che mese noioso, vabbè, noi ci risentiamo tra poco. Radio Tube. L'abbiamo detto, Daniele, siamo pronti, è quasi il momento di partire per Sanremo. L'abbiamo definito più volte scherzando, ma non tanto il Super Bowl italiano, è l'evento più social TV dei social, però, italiani. È così. Però se tu prendi un tuo compagno di viaggio, co-conduttore, non so cosa sono, il mio preferito, co-conduttore preferito, sì, e lo porti a Sanremo, sì, uno degli eventi per la cronaca bianca, possiamo definire costume, società tutto, più importanti di sociologia, tutti i tempi. Sociologia, storia. Lo devi un po' preparare, non è che mi puoi buttare in pasto a Sanremo, che è uno degli eventi che divora qualunque cosa, così. Intanto sappiamo quasi tutto della prossima edizione, che comincia martedì tra pochi giorni. C'è stata una conferenza stampa inaugurale, che come sempre si fa a Sanremo, è stata lunedì. Immagino che tu, prima fila? Io, non so, prima fila più o meno arrivata sotto la neve. Intanto ci ricordiamo dell'anno scorso. L'anno scorso il momento più discusso sui social italiani. Strano, non ci sono mai polemiche. Non ci sono mai. No, il momento più difficile del Sanremo 2013 fu questo. Siete bellissimi, siete bellissimi. Non politica, no, ragazzi, no, così non vale, così non vale. Stiamo applaudendo un comico dei più apprezzati e amati del pubblico televisivo e dobbiamo divertirci e non approfittare del Festival di Sanremo, non approfittare del Festival di Sanremo per farsi notare con due urli. Alla fine ciascuno applaudirà quello che crede. Mamma mia, che momentaccio l'anno scorso. La presentazione, i momenti di crisi. È molto, molto difficile. Si va indietro nella storia. Cavalli, no? Pazzi che minacciano di buttare. Sì, sì. Tu lo stavi guardando l'anno scorso in televisione questo momento? Lo stavo guardando e devo dire che è stato un momento particolare, perché fino a quel momento effettivamente Crozza è stato... diciamo, non è stata la sua performance migliore di tutti i tempi. Ragazzi, Sanremo è una cosa... Io sono teso e devo venire solo a tenerti il microfono. Immagino che quelli che devono cantare, presentare, far ridere... Io non lo so, come fanno? Tra l'altro, Sanremo è anche un'occasione per confrontarsi molto con il pubblico. Non solo in questo caso col pubblico dell'Ariston, che manifestava, insomma, più o meno legittimamente le rimostranze di fronte a Maurizio Crozza. Perché ormai con Twitter, con Facebook, con i social, il pubblico si lamenta in tempo reale. Già l'anno scorso, è stato il primo evento in cui Twitter ha avuto un'importanza di quelle... Quest'anno sicuramente di più, Fabio Fazio ne è convinto. Allora, c'è a questa Twitter. Lui c'è, è attivo, sta postando un sacco di foto. A questa conferenza stampa ho avuto modo di chiedere sia a Fabio Fazio che a Luciana Littizzetto il loro rapporto con ma i social e con le critiche. Ma quanto sei brava, ma quanto lavori, sembra che io non faccia niente. Ma perché mi piace fare i giretti in giro. Allora senti cosa hanno risposto Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il giorno e la notte, senti quanto sono diversi. Twitter mediamente non sono critiche, Twitter in genere sono, le critiche su Twitter per lo più sono insulti, come abbiamo ormai dimostrato da tutti, ma quelli poi sai, sono, alla fine sono decine, quindi sono alcuni maleducati, pazienza. Le critiche, quando critica e confronto ci mancherebbe altro, anzi di solito si apprende, anche si dice, ma invece è vero, cioè anche le insomma, qualunque cosa ti venga detta, come capita a chiunque di noi, se non sei scemo è una roba che ti tieni, che ci pensi e poi decidi se ti è utile o no. E non ho tempo. Infatti io mi stupisco tantissimo anche di quelli che dicono faccio questo, tutto quell'altro, dico mamma mia, ma dove lo trovi il tempo? Io devo fare il mio mestiere, devo fare la mamma, devo fare la casalinga disperata, e il tempo che ho disponibile leggo, no, non twitto. Magari mi mando qualche mail se mi serve, oppure sì, parlo con i miei figli via WhatsApp, ecco, tutto lì. Adesso mi ha mandato una foto mio figlio che sta studiando. Sì, ci credo moltissimo. Si era sentito il suonino del WhatsApp di Luciana? Sì, sì, c'è sentito un suonino e effettivamente era il figlio che le mandava una foto via Devo dire via che questa è la giustificazione più onesta che si può dare. Non ho tempo è una giustificazione onesta. Quelli che dicono mi piace perché mi espongo, tutte quelle altre giustificazioni strane, non mi piace essere a contatto continuamente. Invece non ho tempo ha del buono e del vero. Sai che Luciana Littizzetto è stata praticamente la più ripresa da Twitter l'anno scorso, insieme, vabbè, Marco Mengoni, lui aveva lui ha un suo seguito, una sua fan base molto al suo esercito che è particolarmente affine ai social, però Luciana Littizzetto fu particolarmente seguita dai social e dalla social TV l'anno scorso. In particolare ci fu un momento, dai, facciamo un altro pezzettino di Amarcord. Vai. Con noi c'è Carla Bruni che è una bella gnocca, sarà che qui a Sanremo ce ne sono poche, lei beve l'Armagnac leggendosi Balzac, io bevo il Grignolin leggendo Topolin, lei era Premier Dame, io Premier Nan, io sono restato in Rin, con Chiamparin adesso con Fassin, è andata meglio a te. Ha una coscia che è alta quanto me, io dico le boiate sempre su Rai 3, le si è portata a casa fior di Sarkozy, io spero di uscir viva sabato da qui, lei ha la Bourguignon, io c'ho marcio, mi mangio l'omelette, io scelgo la baguette stavolta appunto a me, la la perché le canzoni di Carla Bruni sono tutta una... Beh, quest'anno dovrà fare della satira su Julie, a questo punto l'anno scorso è cambiata, quest'anno è cambiata la storia e quindi... Però quest'anno c'è Letizia Castà. Beh sì, tra l'altro, vabbè, insomma, ci sarà ancora della France e sentiremo se così ci sarà ancora dell'ironia su questo momento della Francia. Torniamo ai social. Sì, torniamo. Noi lo citiamo spesso, chiocciola Gianca Leone, Giancarlo Leone, perché lui è il direttore di rete. C'è una specie di derby. Sì, due Gianca direttori Leone di rete. E Andrea Vianè. Ecco, due particolarmente attivi su Twitter. assolutamente, e attivi sia nella doppia veste, nella veste professionale. Questo è anche lancio temi così a go go, così riflessione, così questa settimana in cui abbiamo avuto tempo per pensare perché non è successo niente. No, perché c'è la doppia veste professionale, gli ascolti, il lancio del programma, però anche la veste personale, cioè divertirsi ogni tanto, parlare del calcio, della vita di tutti i giorni. E magari anche ricevere consigli, ma li ascolteranno. Per il palinsesto? Tu glieli mandi mai? Ma no, io in realtà no, però magari dei commenti sì, quando vedo qualcosa che mi piace o non mi piace, io lo scrivo. E ti rispondono, a volte rispondono. Sì, a volte sì. Ma Giancarlo Leone, direttore di Rei 1, avrà accettato dei consigli? Che è quasi una carica istituzionale, peraltro. Anche su Twitter. Anche su Twitter. Li avrà ascoltati questi consigli, sentiamolo. Allora, ho letto, ascoltato, è difficile dirlo perché sono arrivate le indicazioni le più diverse di questo mondo. Da chi ci chiedeva il ritorno in gara di Albano, che abbiamo usato notoriamente su Rai 1 in tutte le salse, che io vorrei comunque usare sempre, come è noto, fino ovviamente a Giorgia, a tutti i cantanti contemporanei di successo. In questo caso il festival ha una logica a sé, la commissione artistica e chi decide sceglie una sua linea. Poi il social che io seguo, come sai, se seguiamo in molti, su Twitter o su Facebook, ecco. Quello, diciamo, è importante non fosse altro per sentire quello che vuole la gente, e sappiamo che riusciamo a accontentarli in parte, mai completamente, però cerchiamo di avvicinarci ai loro gusti. Su Twitter sono tutti cattivelli, tu che reazioni hai quando leggi le cose così un po' acide? Guarda, Twitter mi ha insegnato, io sono già calmo e sereno, equilibrato, così mi dicono per mia natura, mi ha insegnato ad essere ancora di più. Quindi a volte i social tendono qualche volta a enfatizzare, a volte qualche volta anche a usare toni pesanti, però anche questo è importante, è un segnale che bisogna capire, perché anche chi protesta, anche magari su cose più o meno leggere come può essere la televisione, lo spettacolo, la cultura, rappresenta un mondo. Quindi il fatto che con questo mondo si entra in contatto e da cui prima si era isolati è molto importante, quindi mi è molto utile come persona e anche come direttore di rete. Eccolo qua, Giancarlo Leone, pacato, giusto, insomma, ha citato peraltro Giorgia e qua è la polemica perché lei si era fatta avanti per partecipare magari con Alicia Keys con questo duetto, l'ha ribadito via Twitter, però insomma questo autoinvito non è rimasto così inascoltato. Invece ad annunciare la sua partecipazione a Sanremo via Facebook è stato Ligabue, perché Ligabue in realtà invece è uno che non usa Twitter. Come retweet. Ospite, no? Sì, come sì, ospite. Come ovviamente lui, sono proprio contento quest'anno di andare a Sanremo, grazie a Fazio e a tutti i suoi collaboratori per l'attenzione che ci stanno mettendo, perché possiamo fare la nostra musica al nostro meglio. È un uso molto più così istituzionale, pacato dei social. Chi invece si diverte molto, moltissimo. Sì, e mette un sacco di foto. Mette un sacco di foto. È Duccio Forzano, che è il regista e sarà regista anche di questo Festival di Sanremo. E anche a lui abbiamo chiesto, ascolti le critiche, che cosa ti concederai in questo festival? Perché io immagino che dietro le quinte uno abbia la tentazione di twittare e tutto, non si può. Ecco qua Duccio Forzano. Il bello e il cattivo tempo, il rovescio della medaglia, il bianco e il nero, questo è il social per me, perché bisogna avere il coraggio, no, di ricevere, di assorbire anche non solo i complimenti che arrivano sempre, e io ringrazio tutti per questa gentilezza, però arrivano anche critiche, a volte fin troppo feroci, però poi in fondo quando qualcuno ti critica un po' di ragione ce l'ha. Trovare l'umiltà, il coraggio di dire mi ha detto una cosa, magari me l'ha detta in malo modo, però analizzandola forse potevo fare anche così, è una cosa che mi serve moltissimo. E quindi resisto, anche se ho ceduto una volta, ho avuto una grossa discussione con dei ragazzi e me ne sono tolto da Facebook. Poi a bocce ferme ho capito che era sbagliato ed era codardo e ci sono rientrato. Cosa ti concedi di svelare sui social? Sceglierai cosa condividere? Beh, cerco di non rovinare le sorprese, insomma, però mi piace stuzzicare. Certo, il rischio è che a volte se ti lasci prendere la mano, l'anno scorso è successo che ho twittato, per esempio, durante il Sanremo scorso, durante una riunione con Fabio, ho twittato una foto dove c'era Fabio che stava scarabocchiando su un foglio e lì c'erano dei nomi di cantanti. E ovviamente i più bravi sono andati a zoomare all'interno del foglio e hanno, per fortuna, erano nomi che già circolavano, se no avrei fatto una bella frittata. Radio Tube. Rieccoci con Radio Tube, con chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio, con l'hashtag cancelletto Radio Tube, perché ogni tanto mi dimentico. Sai cosa mi dimentico sempre, Daniele? Di ricordare agli ascoltatori di scaricarsi il podcast. Ah, noi non ne parliamo mai del podcast. Noi ci dimentichiamo, bisogna fare come Pagliarini, che Ligio al dovere, il mio conduttore preferito di Radio 24, ovviamente, che ricorda di scaricare il podcast, di iscriversi al podcast. Dai, fatelo. Ricordiamolo, ricordiamolo. Dunque, per la rubrica Le domande inutili ma filosofiche di Radio Tube, sì, questa settimana ci chiediamo, sì, se è più onesto e sincero, è utile e sincero democratico lo streaming oppure il fuori onda. Beh, diciamo che sono due scuole di pensiero, perché lo streaming, si sa, tutto va in streaming. Sì, tutto va in streaming, questa settimana non è successo niente, no, in politica, quindi in streaming non è andata di niente. Politica in però ci fosse stato, che so, una direzione del PD. Facciamo la fanta direzione del PD che non è avvenuta. Probabilmente avesse dovuto decidere qualcosa, sarebbe andato in streaming. Allora, facciamo una cosa. Sì. Io ti propongo un audio, sì, di una direzione del PD. Ok, che... però dopo ne discutiamo con il mio direttore di mensile del Sole 24 Ore, che si chiama Il Preferito. Vediamo, scegliamo quale direttore del mensile che si chiama Il Preferito. Va bene. Nel frattempo ascoltiamo l'audio, poi vediamo chi invitare. Il audio, ascoltiamo. Il audio, direzione del PD, segretario del PD Matteo Quella Renzi. Che però non è stata importante. Ascoltiamo cosa è successo. Appena in tempo sta cominciando Matteo Renzi, l'attesissima relazione. Ci sono delle occasioni, dei momenti in cui... Tanto meraviglioso, mi arriva un messaggio dalla 7, siamo in pubblicità, aspetta, non è che posso. Neanche una roba. Dicevo. No, è vera. Beh, allora, era la 7, era Mentana. E come l'ha presa Chicco Mentana, Enrico? Si sente un pochino sotto gride, soddisfatto. Ah, era contento era stato citato in questo streaming della direzione PD, dobbiamo dirlo, è avvenuto giovedì pomeriggio. Ebbene sì. Sì. Lo commentiamo con il nostro direttore preferito del mensile preferito del Sole 24 Ore, Il, che però adesso... Che esce venerdì, che è il 21. Il 21. E poi tutti si lamentano su Twitter che già il venerdì sera non lo trovano più in edicola. Sì, Correte la mattina, svegliatevi presto la mattina. I lettori di Il sono tutti su Twitter e parlano solo di Il. Ma lo chiediamo al direttore di Il. Parliamo. Ce l'abbiamo qui, Cristian Rocca. Buonasera. Ciao, buonasera. Mi ha detto Daniele che tu hai una tua... Ha cambiato già idea però, come tutti gli juventini. Cioè era contro lo streaming. Adesso gli piace. Adesso lo piace. Conosci da tempo. Qualsiasi cosa ti abbia detto è falsa. È falsa. Ah, perfetto, esatto. Perfetto. Quindi io già prendo le mie... Però vai avanti. Abbiamo lavorato tanti anni assieme. Allora, lo streaming o il fuori onda? Questa è la nuova domanda filosofica di Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio. Effettivamente, vabbè, questo streaming gustosissimo, questo messaggio... Che tra l'altro, secondo me, dice tantissimo di Matteo Renzi, che tira fuori il telefonino, legge il telefonino. Che ne pensi, Cristian? Sì, intanto ricordo che non è la prima volta che Mentana usa il telefonino e i messaggini in diretta televisiva. In questo caso è stato lui, diciamo, che ha mandato in onda Renzi che leggeva il suo messaggio. Ma io ricordo che molti anni fa, credo fosse ancora al TG5 o in uno speciale... di Canale 5 legato alla politica, fece questa cosa qui di leggere un messaggio. Fu una delle cose, diciamo, epocali della TV italiana, un po' come dell'uso dei social network, chiamiamoli SMS come dei social network, la rottura della forma convenzionale. Sì, un po' come quando Barack Obama nominò vicepresidente Joe Biden via Twitter. Fu la prima volta che si annunciò politicamente. No, pensavo che la stranezza fosse aver nominato Joe Biden, quella, ma comunque, alla domanda di Daniele che tu mi hai rivolto, beh, io sono contrario a tutti e due. Sono contrario sia cosa pensavi? Né col fuori onda né con lo streaming. Allora, il fuori onda penso che sia un guardare dal buco della serratura, è come le intercettazioni telefoniche pubblicate dai giornali, cioè è una roba che non si fa, è come le conversazioni private registrate illegittimamente. Il fuori onda non esiste, non è una cosa su cui si può costruire un'agenda politica, ovviamente, per le ragioni evidenti, ma anche lo streaming. Cioè, io sono stato molto, come dire, critico del precedente segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani quando fece quel famoso incontro in streaming con il Movimento 5 Stelle sulla trattativa per formare un governo allora. E quella era stata una specie di pagliacciata che secondo me ha fatto molto male proprio a chi ha deciso di utilizzare questo strumento per andare incontro alle richieste del Movimento 5 Stelle. Lo streaming è questo nell'accezione di cui si parla. Quello di cui avete fatto sentire un frammento non è streaming, quella è una diretta che adesso non è più, non si dice più diretta televisiva come si diceva un tempo, adesso le dirette si fanno Ha detto però le direzioni di partito, soprattutto se sono così importanti, anche se non è successo nulla questa settimana, in diretta sono meno sincere che a porte chiuse. No, a me non sono sembrate insincere, non credo assolutamente. Poi in ogni caso, anche quando non c'era diretta streaming, allora, la diretta streaming, chi ha ascoltato questa diretta streaming in questa settimana in cui non è successo niente? Gli stessi giornalisti che l'avrebbero ascoltata e raccontata il giorno dopo sui giornali o lo stesso giorno a Radio 24 e in televisione. Cioè la persona normale, insomma, le dirette streaming sono per gli stessi che stanno su Twitter, cioè non per le persone normali, sono per D.Bellazio e per Marta Marta Cagnola. Cioè le persone normali in questo momento, in quel momento stavano a lavorare o stavano a casa o stavano a fare altre cose. Non è come Twitter, insomma, è una cosa molto divertente. Io mi sono molto divertito, mi sembrava come la serata degli Oscar, come la finale di Coppa dei Campioni, insomma, sembrava una cosa così ludica, non sembrava una da cosa un po' che non la guardi, però la finale di Coppa ne abbiamo fatte quattro negli ultimi anni. Non abbiamo qui c'è la lite. Io però vorrei passare anche a commentare con voi il personaggio della settimana. Io lo so che è successo, non è successo nulla, vabbè. Qua Rocca ci può aiutare, però perché è giornalismo anglosassone. Io ho amato molto Mr. Alan Friedman. Perché questa settimana Io non riesco a non dire risparmiatori. Ecco, adesso vi spieghiamo perché Daniele Bellasio continua a dire risparmiatori. Rispondo a mia mamma al telefono e gli dico ciao risparmiatore. Ecco, perché sentiamo un pezzettino del vero Friedman di questa settimana. 2011, la crisi è drammatica, il salvataggio della Grecia, la crisi dell'euro e la speculazione sul debito sovrano cominciano a minacciare l'Italia. Lo spread è alle stelle e il mercato è pieno di operazioni spregiudicate da parte di banche e mercati finanziari. La Germania della Merkel non ama Berlusconi. La Commissione europea è fuori di sé. C'è la famosa lettera della Banca Centrale Europea. È un anno drammatico. Questo è il vero Alan Friedman, però c'è stato... Ma sembrava un servizio di Linea Gialla, che è uno dei nostri programmi preferiti. Ma siamo andati a scovare, Daniele Bellasio è andato a scovare un Crozza Dannata, che è un Friedman... No, guarda, dire la verità, l'ha twittato la onorevole Ascani. Di ottima memoria. Che credo sia lettiana. Si può... Sa se ancora. Qualcuno sarà ancora lettiano. Boh, chissà. Beh, comunque, adesso non entriamo in questa cosa che non è successo niente. Allora, dicevamo che lei l'ha twittato, io me lo sono visto, e da quel momento in poi continua a dire risparmiatori. Ecco qua, Crozza Friedman. Buonasera a tutti i risparmiatori e a tutte le risparmiatori, un caro saluto dal vostro Alan Friedman. Attenzione, il saluto è caro perché c'è l'euro. Ci fosse stata ancora la lira, sarebbe stato un saluto strinzito, saluto distaccato, un salutino. Con l'euro invece tutto è più caro, anche il saluto. Impennata dell'euro sul dollaro, molto bello, vedete qui, strapotere dell'euro sul dollaro. Quindi il mio consiglio è comprate dollari, cari risparmiatori, comprate dollari, care risparmiatori, c'è 3 per 2. Vabbè, uguale. Uguale. È uguale. Anzi, è un po' più. Un po' meglio. Abbiamo ancora pochissimo tempo e io voglio togliervi tutte le curiosità in anticipo. Voglio sapere su cosa. Il. Dai, dici un po'. Così cosa. Evitiamo che affronti il tema. Perché non mi volete far parlare di Friedman? Perché vogliamo darti la possibilità. Io lo di difendo. Per esempio, lo difendo. Ma comunque. Vabbè, difendilo. 30 dici, secondi. Abbi il coraggio di difendere. Esatto, 30 secondi. Singola, cioè, no, lo difendo sull'inglese. Magari io quando parlo in inglese parlo con un accento italiano simile a quello di Crozza. Vabbè, quindi facciamo per simpatia. Non è, quindi, però devo dire anche, scusa se lo difendo ancora una volta, è riuscito a farmi ad essere d'accordo per la prima volta credo nella mia vita con Vittorio Zucconi. Non so se l'avete visto in televisione da Formigli, credo. Assolutamente. Io ero con pulita. Zucconi, cioè ero pronto a sostenere Zucconi for president. Era, come dire, aveva ragione su tutta la linea, quindi scusate la parentesi. Però è attivissimo sui social, Vittorio Zucconi, sì. Peraltro. Sì, sì. Non svicolare, cosa ci sarà su Will? Ci saranno molti, come dire, molti spunti per il risparmiatori. che bello. Siamo nel mensile del Sole 24 ore. Ma niente, il solito straordinario, formidabile, straordinario, sì. Incredibile, affascinante. C'è una polemica sul fatto che lui ritwitta i complimenti in rete, eh? È interessante. Ma si può fare, non si può fare, chissà. Secondo me, beh, io quando sto è pubblicità aperta, sì. Mi piace questa. Scusa, quando è vanità, no, ma quando è chiaramente pubblicità volta a diritto quasi di far, come dire, vendere il giornale. Dunque, quindi, la copertina? La copertina c'è una fotografia che abbiamo scattato a Londra di Wes Anderson, un regista che lei conosce molto bene. Grazie. Che apprezzo molto. No, sì. Certo. E c'è una riflessione sul potere del glamour che ha fatto Francesco Pacifico, che su Twitter si chiama @FZZZPacifico, credo. Per rendere le cose facili, sì, io odio quelli che si cambiano il proprio nome di battesimo. Madonna, stiamo aprendo su Twitter, temi ma... su temi, possiamo fare sette edizioni di Radio se ti chiami Daniele Bellasio ti devi chiamare Daniele Bellasio, non Di Bellasio, perché sennò io non no, ti io trovo. L'ho fatto per abbreviare, ho Marta capito? Cagnola e non ti trovo, era già breve. Vabbè, comunque c'è questa cosa di Pacifico sul potere del glamour, secondo me è molto interessante. C'è un ritratto formidabile di Michele Masneri proprio di su Wes Anderson. Poi c'è l'esordio sulla stampa italiana di uno straordinario giornalista, grandissimo giornalista del Financial Times, vero, non come quell'altro di cui abbiamo parlato prima, che si chiama Ferdinando Giuliano. Che ha dato la notizia. Ha dato la notizia che Letta aveva cancellato la visita ufficiale in Gran Bretagna. Sì, lui scrive e gli editoriali. E lì si è capito che non sarebbe successo nulla. Nulla questa settimana. E lui scrive gli editoriali per il Financial Times e ha scritto un bellissimo reportage dalle viscere di Londra. Per il nostro giornale è andato nei cantieri di Crossrail, che è questa straordinaria, la più grande opera ingegneristica d'Europa, che è sotto la città di Londra, un super treno che collegherà i vari punti della città, e ce l'ha raccontato per noi, insomma varie altre cose. C'è anche una lunghissima intervista a un tuo mito, caro Di Bellasio. Cioè, hai intervistato Castagnier? No, Ilario Castagnier, sì, no, non così mito come lui. No, perché lui il suo mito è di Ilario Castagnier. Uno dei, ho capito, ognuno. Vabbè, il Belgio, il ciclismo, Gabber e Ilario Castagnier. No, c'è un'intervista a Federico Buffa. Ma io lo voglio invitare da una vita. Sì, bene, sì. Un'intervista di 27.000 battute, che per un inframuscolo. Una cosa stralunghissima. Infinita e poi molte altre cose. Federico Buffa, quando vuole partecipare qui noi, a Radio YouTube, noi ci siamo. YouTube. Beh, dobbiamo ringraziare il nostro direttore preferito del mensile del Sole 24 Ore preferito, Christian Rocca. E quindi la prossima grazie, volta Christian. Torna e ci spiega perché difende Zucconi e Friedman. My pleasure, come dice Friedman. Alla prossima, ciao. YouTube. E siamo arrivati proprio agli sgoccioli del nostro Radio Tube di questa settimana in cui non è successo niente in guarda, politica, meno male niente che di c'erano musica. Le Olimpiadi, ma guarda, ma infatti almeno ma non abbiamo ancora parlato però di Olimpiadi. No, ma infatti è parliamone, l'unica cosa che è successa. Io devo dire che non sono molto preso da queste Olimpiadi, non so perché. Non ti stanno. Mi aiuti con qualcuno ad appassionarmi? ti aiuto con una voce di Radio 24 e un mito delle Olimpiadi, proprio che si è concretizzato ed è diventato eterno con queste Olimpiadi. Intanto, con la voce di Radio 24 abbiamo con noi Dario Ricci. Buonasera Dario. Buonasera ragazzi. Allora Dario, a bordo campo domenica 16:30, io lo ricordo subito prima di dimenticarmelo, il mio programma di sport preferito di Radio 24, no, ma sì, poi lo posso dire perché Pardo, esatto. No, perché o quando no, c'era vabbè, ma io e Dario Ricci abbiamo condiviso certi microfoni che tu non puoi non vogliamo no, sapere tutto. No, certi microfoni. Non diciamo di... tutto, non microfoni, diciamo io microfoni. L'ho condiviso con Cruciani, vedi tu. Vabbè, Dario, cosa diciamo a Daniele Bellasio intanto che non riesce ad appassionarsi a queste Olimpiadi? Ma... No, colpa mia, eh? Resta il curling soprattutto, però... Ah, vedi. Diamo una ragione a Daniele di appassionarsi. Sciogliti, Daniele, sciogliti, come sta avvenendo un po' anche alla neve di Sochi, perché capisco che poi sia difficile appassionarsi a delle Olimpiadi invernali fatte con temperature intorno ai 10 gradi. Il bello delle Olimpiadi invernali e più in generale delle Olimpiadi è che si incontrano degli sport che nella quotidianità di tutti i giorni spesso lasciamo nel dimenticatoio, no? Vediamo il freestyle, così come nominavi tu stesso il curling, che fece milioni di ascoltatori ai tempi di Torino 2006, la versione su ghiaccio delle bocce, in poche parole, ecco. In particolare, io ho letto sui social una grande attenzione allo slopestyle. Io mi sono presa un po' di tweet. Michele Rolla, il miglior modo per cominciare una giornata di studio intenso. Io me lo immagino, non so, liceale, universitario, latte, biscotti e slopestyle. Poi il pattinaggio, Gea Karen, voglio il pattinaggio di coppia, mi piace quando lui lancia lei in aria, mi sembra un po' una metafora dell'amore. Però senti qua. Arte tra ricchi, la vita è come il pattinaggio a coppie, quando la donna sbaglia è sempre colpa dell'uomo. Non lo so, mi piacciono questi tweet che ho raccolto. No, devo dire che le Olimpiadi ispirano i twittatori, diciamo. Dario, ma secondo te, ma io non lo so se è una specialità italiana, però l'italiano quando c'è il mondiale è un CT di calcio, esatto. Quando c'è Sanremo sa tutto di musica, e in queste Olimpiadi l'italiano, soprattutto sui social, è un esperto di qualsiasi sport, anche di slopestyle. Ma cosa succede? Sono straordinari, Dario? Un po' il social ci aiuta a sentirci un po' tutti esperti, no? Perché sui 140 caratteri di una twittata sicuramente è un po' più facile mascherare le proprie lacune, no? E quindi in questo il social ci viene incontro. Poi altra cosa sarebbe magari per noi commentare un'intera gara di slopestyle o di slittino, e poi diciamo pure che ci sono le tecnologie che ci aiutano. Se vediamo le Olimpiadi in TV, ormai di una gara di slittino seguiamo la traiettoria ideale disegnata al computer. Tutto sommato il social e i media ci aiutano davvero anche a sentirci un po' esperti, Marta, o almeno a far finta di esserlo, ecco. Visto che Dario ha citato lo slittino, vi farei riascoltare il momento forse più sentito di questi giochi, perlomeno nella prima settimana, proprio dai social, dagli italiani, da tutti, non solo in Italia. Eccolo qui, il re. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, e primo Zöggler, sicuramente a medaglia, Armin Zöggler. Bravo, Armin. Festeggialo tutti. Beh, Twitter è esploso in quel momento, tutti erano ad hashtaggare Zöggler, che non è neanche facile da scrivere. Dario, leggenda oltre ogni immaginazione. Leggenda assoluta. Vedo su Facebook che ci sono delle pagine a lui dedicate, ma non c'è un suo profilo. E lui, che tra l'altro passa per una persona molto chiusa, seria, riservata, come lo vediamo davanti ai microfoni, non certo un amante delle interviste, anche se non si tira indietro, visto il suo ruolo anche di capitano e portabandiera, ma che poi dice che nel privato è un gran chiacchierone, nelle riunioni di famiglia tiene sempre banco. E lo ricordo anche dopo l'oro conquistato a Torino 2006, gran campione anche nei brindisi per i festeggiamenti. Quindi insomma, probabilmente anche un'anima social che una volta scesa dallo slittino potrà mostrarci con maggiore libertà, dai, diciamo così. Non solo sceso dallo slittino, perché a quanto mi anticipavi, Dario, non possono lanciarsi nei social gli atleti dalla Russia. Ma dai, interessante. Sì, perché questo aspetto è interessante, perché abbiamo parlato di Sanremo, più o meno gli artisti fanno quello che vogliono, cioè, e invece ci sono delle regole, è interessante. Assolutamente sì, e anzi guai ad abusare dei social, che tra l'altro saranno anche l'altro grande tema dei mondiali di Brasile 2014, perché tutte le federazioni, compresa quella italiana, stanno mettendo a punto, e quelli più avanti sono gli inglesi, per mettere appunto nero su bianco delle regole per l'uso dei social. Il CIO si è portato avanti, perché a Pechino qualcosina era sfuggito alle maglie di controllo ancora larghe, e da Londra in poi ha cominciato a restringere l'utilizzo, quindi di fatto non si possono commentare le gare degli avversari, non si possono fare foto con marchi di sponsor personali. Gli atleti hanno delle fortissime limitazioni e altrettanto forti eventuali sanzioni, quindi se li trovate muti in rete in questo periodo è per questo motivo, mentre invece parlano quelli che alle Olimpiadi non ci stanno. Vedete le twittate di congratulazioni, di festeggiamenti, oppure di supporto, no, a chi è in gara. Beh, insomma, diciamo che chi non c'è vive almeno di luce riflessa della presenza online sul web di chi invece nelle gare è impegnato, ecco. Un po' peccato, perché sarebbe bello vedere le retroscena. Ad esempio, il profilo at Sochi Problems, che era quello sui tweet, sui problemi tecnici che hanno afflitto, stanno affliggendo le Olimpiadi. A me era piaciuta moltissimo la foto, quella con il bagno con i due water affiancati, che la trovo oltre ogni immaginazione. C'erano due atlete, se non sbaglio, ovviamente vestite per bene, sedute per mostrare il funzionamento della sì, della... è vero, straordinario, così, così come è stata davvero straordinaria la foto, mi pare, di un atleta canadese che ha messo in rete tutto quello che non si poteva fare nelle toilette di Sochi, e c'era anche il divieto di pisca tra queste cose, diciamo, non l'avevamo preso in considerazione. Hanno fatto bene i russi a, diciamo, per eccesso di zelo. Bisogna essere precisi, per eccesso di zelo, Daniele, a chiarirlo, così che, tra l'altro, c'è una cosa molto bella che vedo adesso sul profilo Facebook di Arianna Fontana, che pure lei, insomma, ha vinto qualcosina in queste Olimpiadi. C'è quella foto, che lei che fa la linguaccia verso il fotografo durante la cerimonia d'apertura, che è subito diventata la foto della sua pagina Facebook, e stanno arrivando complimenti, congratulazioni, eccetera eccetera. Io vorrei leggermi un altro tweet che mi è piaciuto tantissimo, perché ho fatto un po' di ricerche. Le Petit Prince, virgolette, citando una frase in una cronaca del curling: non ha nessun effetto una scopata fatta dalla squadra prima. Signori, questo è il curling. Sigla, e con questo la trasmissione chiude. No, arrivederci. Perché ci sono delle regole interessanti in questi sport. Ma, sì. Ma prima di chiudere, io vorrei farvi ascoltare un pezzettino di musica e capirete subito perché. Eccole qua. Vabbè, ovviamente è la mia canzone preferita del mio duo russo preferito. No, scherzo, non dico il titolo perché, non conoscendo la lingua russa, non vorrei fare figuracce. Dario, le polemiche preventive durante, dopo, sul problema dell'omosessualità in Russia, l'intolleranza nei confronti dell'omosessualità in Russia, l'arrivo delle tattoo, questo duo, lo sappiamo, fintamente lesbo russo, hanno creato molto scompiglio anche in rete. Io vorrei leggere solo un tweet molto carino di Mauro De Marco: le tattoo adesso, Albano e Romina prima, in Russia devono avere una passione per le coppie finte. Assolutamente, questo è già sul podio olimpico, potrebbe vincere l'oro assoluto questo tweet. Beh, io credo che usciremo fuori da queste Olimpiadi un po' più confusi tutti, no Marta? Perché siamo partiti dalla legge contro gli omosessuali di Putin, e dalle polemiche alla liberazione dei Pussy Riot, adesso siamo arrivati a Putin che addirittura è andato ad abbracciare Irene Wüst, la pattinatrice olandese apertamente lesbica. Io da qua al 23 febbraio mi aspetto di vedere lo zar di tutte le Russie con l'orecchino il cappello da rapper. A questo punto può succedere di tutto. E sul rapporto tra sport e politica ci sarebbe tanto da dire. Non a caso la Fiorentina è in finale di Coppa Italia. Accidenti, ma questa è una stilettata, però. No, però non è successo niente, in politica, questa settimana. No, però la Fiorentina questa settimana è andata in finale di Coppa Italia. Allora possiamo dire che in politica non è successo niente, ma nel calcio sì. Sì. Ma che meraviglia. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, no. Purtroppo sì. Allora, io intanto ricordo a bordo campo tutte le domeniche alle 16.30. Io sono già pronta per partire per Sanremo. Saluto e ringrazio Dario Ricci. Grazie Dario. Ciao. Grazie ragazzi, grazie, buon Sanremo Marta. Grazie Dario, io intanto ringrazio anche il nostro Paolo Corleoni in regia, noi siamo davvero pronti per Sanremo. Allora io per i saluti non ce la faccio a non dirlo, è tutta la settimana, saluto tutti i risparmiatori. Allora salutiamo i risparmiatori e diamo appuntamento alla prossima puntata di RadioTube, ci ritroviamo la prossima settimana sempre con RadioTube. Ciao!